Salve, cominciamo con oggi una programmazione un po' diversa di queste puntate, perché ho desiderio di unire un po' come un vaso comunicante quanto noi facciamo nella realtà e quanto poi la radio può in qualche modo trasmettere. In questo senso, noi abbiamo per esempio aperto su Facebook una pagina che si intitola Osservatorio in difesa della dignità della lingua, dove raccogliamo tutte le denunce di abusi e di manipolazioni della lingua italiana, sia a livello di significato delle parole che viene stravolto e manipolato, sia a livello di non correttezza dell'uso delle regole della grammatica e dell'ortografia. E mi piacerebbe con oggi inaugurare una sorta di puntate non nozionistiche, ma di riflessione su alcuni di questi aspetti linguistici. Poi dedicheremo invece in maniera alternata altre puntate a tematiche di interesse più letterario o più scientifico, proprio perché promuovere la lettura significa fondamentalmente conquistare un pezzo di cultura. Passiamo quindi alla cultura linguistica. Una cosa che accade spesso è la confusione tra registro del parlato e registro dello scritto. La confusione sta soprattutto nella accentazione. Vi faccio un esempio semplice. Sto, do, so, sono dei monosillabi che in italiano non si accentano, perché l'italiano ha una regola fondamentale, che è quella appunto della non accentazione dei monosillabi. L'unico momento in cui è prevista l'accentazione è solo quando il monosillabo in questione può presentare delle ambiguità. Nel caso, per esempio, di da. Da può essere una preposizione semplice o la terza persona del verbo dare, e in questo caso si accenta. E così come può accadere per la parolina, chiamiamola così, se, che può indicare appunto la particella della costruzione ipotetica e contemporaneamente può essere invece usata per indicare il se stesso, cioè il pronome personale riflessivo. Questo è inevitabile che accada perché il parlato domina nel nostro uso della lingua e il nostro modo di parlare così tonico, così melodico, porta all'accentazione e quindi noi tendiamo a credere che poi la scrittura non sia altro che il pentagramma emotivo dei nostri suoni. In realtà la scrittura è un codice con delle regole ben precise. Un altro elemento di questa confusione, se non a volte ignoranza, che spesso è dilagata e promossa proprio dai media, è per esempio l'uso improprio dei verbi impersonali, che richiedono all'interno della nostra grammatica l'uso del verbo ausiliare essere e non avere. Quali sono i verbi impersonali? Sono quelli, lo dice la definizione, che non implicano un soggetto che compie l'azione. È bellissima questa definizione rispetto alla visione del mondo. Sono quelli che indicano per di più le condizioni atmosferiche. Per esempio, oggi nevica. Ecco, il verbo nevicare è un verbo impersonale, quanto il verbo piovere, e non implica un soggetto che compie l'azione. È come se questa impersonalità indicasse fondamentalmente un'azione assoluta che non ha bisogno per accadere di avere né un soggetto e né un oggetto su cui accade. Perché l'ausiliare essere non è così utilizzato? È vero che ormai il parlato ha reso i verbi impersonali legati spesso e volentieri in maniera indifferenziata all'essere e all'avere, ma appunto è una maniera indifferenziata che non corrisponde assolutamente alla regola grammaticale che richiede per questi tipi di verbi l'uso dell'ausiliare essere. È piovuto, è tuonato, è nevicato. Perché insistiamo molto su questa correttezza? Perché la padronanza linguistica è una padronanza poi espressiva, perché sapere e conoscere le regole della nostra lingua ci permette poi di percepire la trasgressione come un surplus di senso e non come un errore, e ci permette di comunicare meglio. La bellezza passa attraverso sempre delle regole. Non è vero che è l'anarchia o, peggio, l'ignoranza a fondare la creatività. E la creatività del parlato è una creatività che ha tutta la dignità di esistere se accanto il rispetto delle norme di scrittura e di grammatica sono realmente una padronanza comune. Noi ci muoviamo affinché la cultura del leggere, si basi sempre sul rispetto della competenza, e una competenza va diffusa, va trasmessa, non va negata, non va manipolata tramite un'ignoranza dilagante. Grazie.